si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona giornata, buon sabato, cari ascoltatori. Si può fare nella prima puntata in questa nuova versione dalle 7.30 fino alle 10 del mattino, domani dalle 8.30 fino alle 11. Vi terremo compagnia con la rassegna stampa, qui andiamo subito sui giornali, poi con un po' di argomenti della settimana, ma anche del giorno. Prima di tutto però cominciamo con una buona notizia, perché questo programma si ispira proprio a questo, insomma una visione dell'attualità filtrata così dall'ottimismo delle cose buone che accadono, e accadono, anche se è difficile, a volte proprio sui giornali ne troviamo scarsamente notizia. Una notizia è questa: la sanità in Lazio, per dire stop agli sprechi, è partita una nuova politica sanitaria ispirata allo slogan "ospedali basta sprechi". La giunta ha introdotto i prezzi di riferimento per 102 dei circa 4.000 prodotti in uso nella sanità. Cosa succede in pratica? Che tutti gli ospedali e le ASL del Lazio sono vincolati ad acquistare questi prodotti a un prezzo medio imposto dalla regione, con una banda di oscillazione che non può superare il 20%, quindi non potrà più succedere in Lazio che una siringa costa in un posto 10 centesimi e in un posto 5 euro, che è una delle cause, si dice, degli sprechi nella sanità. Oh, va bene, con questa buona notizia andiamo invece sui giornali di oggi, che di buone notizie non ne hanno moltissime, a dire la verità, perché i due argomenti principali sono Lampedusa e il sì alla decadenza di Berlusconi in giunta delle immunità del Senato. Cominciamo con il Corriere. Berlusconi, primo sia la decadenza, il Cavaliere, vogliono eliminarmi, scoppia il caso Crimi, la giunta ha deciso, la tocca all'aula, il senatore 5 Stelle posta su Facebook messaggi con insulti durante la seduta. Poi c'è spazio naturalmente anche per Lampedusa, dicevamo, la fuga infinita dall'Africa all'Europa, attesi 2 milioni di migranti l'anno, e questo un articolo di Paolo Valentino che ci ricorda come, secondo un rapporto CNEL, nel 2011 si stima che ogni anno da qui al 2050 si riverserà su di noi una massa tra 1,5 e 2 milioni di persone. Intanto in Italia il presidente Napolitano chiede leggi sul diritto di asilo, il governo si divide sulla legge Bossi-Fini, e poi c'è un reportage di Marco Imarisio dal centro d'accoglienza dove sono ospitati le persone che sono sopravvissute al naufragio, il viaggio della morte pagato $500. C'è poi un fondo di Fiorenza Sarzanini, lo vediamo dopo, magari grande dolore, risposte vere, in cui si tira in ballo l'Europa, perché come vedremo è questo il leitmotiv un po', no? Il tema dominante soprattutto da parte dell'Italia, con Letta, con Napolitano, con Alfano, anche se vedremo ci sono pareri discordanti pure su questo, perché forse l'Europa dei fondi all'Italia li ha pure dati, bisogna vedere come sono stati spesi. Andiamo su Repubblica, Berlusconi fuori dal Senato, la giunta vota sia la decadenza, il Cavaliere, abbiamo già detto, democrazia uccisa, vogliono eliminarmi. A proposito di Lampedusa invece c'è la foto della fiaccolata di ieri tra le vie di Lampedusa in memoria delle vittime del naufragio, i bambini che tengono uno striscione con scritto "ancora una volta non hai sentito il mio grido", e il titolo è "Napolitano subito una legge per i profughi". Un commento di Massimo Giannini invece sulla vicenda Berlusconi: non c'è una ragione al mondo se non il sonno della ragione stessa, che ormai acceca il Cavaliere, per definire il voto della giunta del Senato un colpo al cuore della democrazia. La decadenza di Berlusconi decisa a maggioranza a Palazzo Madama è l'esatto contrario, dice Giannini, l'affermazione di un principio che fa vivere la democrazia, cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, come ricorda la nostra Costituzione. Sulla prima pagina della Padania il titolo è "salviamoli a casa loro". Il commento di Pini, che dice: per evitare il ripetersi delle stragi occorre presidiare le coste libiche con una missione militare, intanto il governo è spaccato tra la linea Alfano che sostiene il controllo delle frontiere e i corridoi umanitari voluti dalla Kyenge. Andiamo invece, dicevamo, pareri discordanti, per esempio sul Manifesto. Il titolo è "Bossi fine". Stop alla legge razzista sull'immigrazione e scontro in Parlamento e nel governo sul provvedimento simbolo della Lega, difeso ormai solo dal ministro Alfano, che ieri ha anche accusato l'Europa di non saper difendere le sue frontiere. Poi c'è scritto a Lampedusa: operazioni di recupero sospese per il maltempo. C'è un articolo di Monica Frassoni, che è parlamentare, che è capogruppo dei parlamentari verdi in Europa, che dice: lo sgomento, il dolore e la solidarietà di fronte alla tragedia nel Mediterraneo, tomba di 20.000 persone negli ultimi 20 anni, non possono farci dimenticare che quanto è accaduto non è né un caso né una fatalità. Il rapporto del Consiglio d'Europa di due giorni fa dice che l'Italia non ha una politica di immigrazione e di asilo efficace. L'appello, dice ancora Monica Frassoni sul Manifesto, alla solidarietà europea sembra ignorare che l'Italia ha ricevuto tra il 2007 e il 2011 112 milioni di euro dal Fondo per il controllo delle frontiere, 25 milioni di euro dal Fondo per i rimpatri, 22 milioni da quello per i rifugiati e 77 milioni per il Fondo per l'integrazione. Dice cioè la Frassoni che l'Italia i soldi dall'Europa li ha avuti per il controllo delle frontiere. Bisogna vedere come sono stati spesi. Anche questa è una domanda interessante. Andiamo invece sul Giornale. Sul Giornale il titolo principale è dedicato al voto in giunta. Fucilato dal socio, primo sì alla decadenza. Il PD di Letta anticipa la magistratura e vota. Berlusconi fuori dal Senato. Il cavaliere, decisione indegna, colpita la democrazia. C'è anche una centropagina, una foto di Bersani, con un articolo che dice: il conto segreto di Bersani, ma l'inchiesta è già ferma, finanziamenti per 500.000 euro. Vedremo più avanti di cosa si tratta con questa inchiesta su Bersani. Ma sentiamo il Fondo, leggiamo un pezzettino del Fondo di Sallusti, uno degli strenui difensori della linea dura nel PDL di Berlusconi, uno degli ispiratori sicuramente dei Falchi. Chi è il malfattore di tutto quello che è successo ieri? Il PD. Non certo Crimi, che ha postato su Facebook, dice lui, gli insulti al cavaliere. Il malfattore è il PD, fedele entusiasta alleato di governo. Può essere che dire oggi la sinistra ha ucciso per sfregio Berlusconi, ha violato la Costituzione, non ha accettato di chiedere un parere alla Corte Costituzionale. Può essere che tutto ciò, dice Sallusti, rischi di irritare Epifani Napolitano, di spegnere l'entusiasmo per la rinnovata armonia delle larghe intese, ma quando ci sono di mezzo libertà individuali e politiche, l'onore di 20 anni di storia politica, non si può indietreggiare di un solo metro. Il calice amaro delle larghe intese, se deve essere bevuto, almeno che resti amaro e si sappia che è un sorso, che a un sorso al giorno si può anche morire tutti di mal di stomaco. Dopo ieri il rischio è davvero alto. Così Sallusti sulla prima pagina del Giornale. Poi un altro articolo, sempre sul Giornale: la Bossi-Fini sotto accusa, fu ispirata da Napolitano. Sorpresa per chi grida alla legge del centrodestra: non fu la Bossi-Fini a prevedere l'arresto per chi favorisce l'immigrazione clandestina, ma la legge precedente, la Turco-Napolitano, firmata dall'attuale Presidente della Repubblica. A proposito di Sallusti, protagonista del titolo sul Fatto Quotidiano, il titolo principale, che è questo: la giunta caccia Berlusconi e Berlusconi caccia Sallusti. Infatti, a quello che scrive il Fatto Quotidiano, Berlusconi consegna il giornale ad Alfano. E scrive Marco Travaglio: un politico che chiede la testa di un giornalista, chiunque sia il giornalista, non ha nulla di liberale, popolare ed europeo. Quando ancora 2 mesi fa si trattava di manganellare chi chiedeva le sue dimissioni, parla di Alfano, Travaglio, per il sequestro e la deportazione della moglie e della bimba di un dissidente kazako, ordinati da agenti di Astana che scorazzavano per il Viminale e perpetrati dalla polizia italiana all'insaputa del presunto ministro dell'interno, sempre Alfano, il giornale di zio Tibia, cioè Sallusti, andava benissimo. Ora che gli dà del traditore per aver voltato Gabbana, non più troppo comodo, scrive Travaglio a proposito di questa annunciata cacciata di Sallusti dalla direzione del giornale. Mi sa che abbiamo quasi finito il tempo, poi il resto dei giornali li vediamo dopo, tra pochissimo entreremo dentro i giornali, vedremo un po' di articoli. Adesso invece spazio alla rassegna stampa europea di Giulia Crivelli, prima al traffico, rassegna stampa europea, giornale radio, e noi torniamo subito dopo di nuovo sui giornali. A dopo. Vogliamo un cambio, vogliamo. Volete un cambio epocale? Provate la nuova Subaru Outback 2000 diesel Linear Tronic, la prima 4x4 boxer diesel al mondo con il cambio automatico CVT, per una fluidità di guida mai provata prima. Più che un cambio, è una rivoluzione. Subaru Outback 2000 diesel Linear Tronic Model Year 2014. Scoprila questo weekend negli showroom Subaru. 24orecloud.it. Nella nuvola, con il sole. Vi presenta Strade in diretta. Buongiorno, a Roma si rallenta sul raccordo anulare per un incidente tra la via Tiburtina e l'innesto con la A24 in carreggiata interna. Un incidente anche a Milano città, possibili rallentamenti tra via Brianza e via Ferranti a Porti. Prudenza negli spostamenti in Abruzzo per la nebbia che riduce la visibilità, 80 metri sulla 24 Roma Teramo tra Sergi e San Gabriele Colledara e sulla 25 Torano Pescara tra Piscina e Pratola Peligna. Condizioni meteo avverse per chi si mette in viaggio, piogge da nord a sud ed è allerta meteo per piogge diffuse su Liguria e su tutto il comparto tirrenico centrale. Ricordiamo i lavori sul tratto veneto della 4, prudenza tra Padova e Grisignano, lavori anche sulla 21 Piacenza-Brescia, tra Caorso e Cremona verso Brescia e sull'autosole tra Fidenza e Parma in direzione di Bologna. In fiera a Milano oggi si conclude il Made Expo, nelle prossime ore è possibile quindi un aumento del traffico intorno a Milano, in particolare sulla tangenziale ovest. Per il momento è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. I commercialisti si trovano oggi di fronte a nuovi problemi. Riduzione dei margini, difficoltà a riscuotere le parcelle, clienti sempre più esigenti. Per affrontarli è necessario cambiare il modo di lavorare. Con Business Pass, la soluzione cloud di Passepartout, si può semplificare l'organizzazione dello studio, migliorare la comunicazione con i clienti, fornire nuovi servizi collaborativi online, riducendo drasticamente i costi di gestione. Per entrare nel cloud di Business Pass, basta chiamare l'800 41 42 43 o visitare il sito www.passepartout.net. Sì! Rassegna stampa Europa. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli, bentornati alla rassegna stampa europea. Ricorderete, la settimana scorsa avevamo iniziato citando un articolo della Süddeutsche Zeitung, il più importante giornale tedesco del sud della Germania, sulle elezioni che si sarebbero tenute in Austria il 29 settembre. Ora vi segnalo questa volta un articolo che è apparso il giorno dopo su Der Standard, che è il principale quotidiano austriaco, e il titolo era "La coalizione perde terreno, la destra cresce". Vi leggo la prima parte. I partiti del governo hanno fatto segnare il risultato peggiore della loro storia, mentre i grandi vincitori del voto sono quelli situati a destra del centro. Il partito socialdemocratico, SPÖ, del primo ministro Werner Faymann, ottiene il 26,6% dei voti, piazzandosi davanti al partito popolare austriaco ÖVP, 24%, ma entrambi perdono anche il 2% dei voti rispetto alle elezioni del 2008. In ogni caso, dopo aver superato insieme il 50%, avranno la possibilità di andare avanti con la grande coalizione. Ricorderete appunto la Süddeutsche Zeitung che in un certo senso anticipava proprio questo, cioè che ci sarebbe stata l'ennesima grossa coalizione che però probabilmente avrebbe avuto, rispetto a tutti i governi dal dopoguerra a oggi dell'Austria, una componente a destra più forte. Infatti, scrive Der Standard, il partito populista xenofobo FPÖ si piazza terzo con il 21,4% dei voti, in crescita di quasi il 5% rispetto al 2008. Entrano in Parlamento il partito del miliardario austro-canadese Frank Stronach e il partito liberale Neos. Il BZÖ del defunto leader d'estrema destra Jörg Haider, vi ricorderete appunto il leader dell'estrema destra austriaca che è morto in un incidente d'auto, si ferma al 3,6% dei voti. Sommando tutti i voti risulta che un terzo degli austriaci ha votato per un partito della destra populista, e questo è un fatto unico in Europa. Ma a proposito di questioni che riguardano tutti i paesi europei, soprattutto quelli che hanno uno sbocco sul mare, ed è, parlo naturalmente della questione dei rifugiati, degli immigrati. Libération, che è un quotidiano di sinistra francese, ha pubblicato un lungo reportage da Calais che si intitola "Qualsiasi altro posto in Europa è meglio della Francia". Questo è un po' la sintesi per dire che i profughi del conflitto siriano che si raccolgono a Calais per cercare di entrare nel Regno Unito, da Calais partono tutte i traghetti, le barche per appunto la Gran Bretagna. Se oltre Manica in Svezia sono subito accolti come rifugiati, in Francia la polizia li perseguita come barboni. Questa è un'altra questione che naturalmente riguarda la Francia, ma riguarda anche l'Italia, soprattutto alla luce degli ultimi drammatici sbarchi e strage di immigrati a Lampedusa. L'ultimissima è di giovedì, con qualcosa, con un bilancio che si avvicina alla centinaia di morti. Ecco, qual è il loro status? Qual è lo status di queste persone una volta accertato che vengono dalla Siria? Vi leggo la prima parte di questo articolo di Stéphanie Maurice. A Calais non c'è un tetto per i profughi siriani. La casa che avevano occupato è stata sgomberata il 5 settembre. La prefettura spiega che lo ha fatto per motivi di sicurezza, perché era inagibile e malsana. Da allora vagabondano per le strade in piccoli gruppetti. Le pressioni della polizia per evitare che si installino in qualche altro edificio abbandonato sono continue. Quindi non possono riposare mai, né lasciare da qualche parte i propri effetti personali. E scrive sempre Stéphanie, citando Cécile Bossy, che è la coordinatrice della missione Migranti Costiere di Medici nel Mondo: sono senza tetto e si stanno trasformando rapidamente in barboni. Per esempio, Stefania ha parlato con Youssef, che ha 25 anni, studia inglese. Quando lo incontriamo alla vigilia dello sgombero non misura le parole. Qui ci arrangiamo senza che nessuno ci dia una mano, non c'è acqua, non ci sono i gabinetti, tutto è marcio, ma perlomeno abbiamo un tetto sulla testa. Perché vogliono sbatterci in strada? E questo era appunto l'articolo di Libération, che cerca di spiegarci, e forse ci fa anche capire, che per quanto le condizioni a Lampedusa e negli altri centri di prima accoglienza italiani sia tremenda, anche in altri paesi è molto difficile gestire con dignità, diciamo, queste persone che arrivano da paesi in guerra, che scappano da una guerra civile, come nel caso della Siria. Ma passiamo a un altro argomento. Questo è la Commissione Europea, e Die Welt, che è un quotidiano tedesco, titola il suo pezzo "La deburocratizzazione preoccupa Bruxelles". Leggiamo di cosa si tratta. Il 2 ottobre la Commissione Europea presenta un documento di lavoro sullo snellimento della legislazione europea, scrive Die Welt. L'obiettivo è rendere più fluido e logico, oltre che meno sensibile alle pressioni delle lobby, il processo di elaborazione delle norme varate da Bruxelles. Per il presidente José Manuel Barroso, la deburocratizzazione è un modo per reagire alle critiche nei confronti dell'eccessiva regolamentazione e al successo dei partiti euroscettici in numerosi paesi. Secondo il quotidiano tedesco, la Commissione vuole fare pulizia e distinguere tra ciò che merita una regolamentazione e la burocrazia inutile. Però Die Welt spiega che questo piano ha suscitato l'opposizione dei ranghi dell'istituzione presieduta da Barroso, perché sappiamo che insomma la burocrazia alimenta tanti meccanismi, anche tanti, ed è alla base di tanti posti di lavoro. Quindi è chiaro che a volte semplificare i processi burocratici significa anche far perdere tante poltrone a persone che sono abituate ad avere queste poltrone, spesso ben pagate. E quindi, scrive ancora Die Welt, alcuni commissari hanno già fatto sapere a Barroso che non condividono il suo progetto. Secondo il quotidiano tedesco, in caso di opposizione su una proposta si procederà alla cancellazione. Resta da capire quindi cosa sopravviverà della lunga lista di ambiti da deburocratizzare. Ma veniamo a un altro fatto di cronaca. Lo avrete sentito sicuramente, lo avrete seguito in quello che era successo in Grecia. Noi abbiamo parlato in questa rassegna stampa proprio la settimana scorsa di Alba Dorata e del suo leader, e anche in radio ho sentito proprio un servizio su Alba Dorata, e in questo caso è un articolo Tanea. Spiega che tutti gli arresti, appunto, intitola il pezzo "Queste sei persone hanno ucciso Pavlos Fissas". Saprete forse, se avete seguito questa vicenda, che appunto sono stati eseguiti, sono stati arrestati il leader del partito di estremissima destra Alba Dorata. Dico estremissima perché non hanno alcun pudore nel mostrare anche i simboli del loro partito, che sono una celtica e una svastica leggermente mimetizzata, ma pur di la svastica è chiaramente riconoscibile. Sono accusati di aver ucciso il rapper che nelle canzoni dei suoi testi aveva la grave colpa di far trasparire il suo essere di sinistra. Il rapper si chiamava Pavlos Fissas, e sono stati appunto arrestati militanti e addirittura quattro deputati che, di Alba Dorata, perché Alba Dorata è un partito di estremissima destra ma siede nel Parlamento greco, sono stati arrestati ed è stato arrestato anche il capo del partito, Nikolaos Mikaloiliakos. Bisogna un po' vedere cosa succederà, perché ci sono state parecchie reazioni, scrive Tanea, questo quotidiano di Atene, e non è detto che insomma non ci siano anche manifestazioni di piazza che naturalmente preoccuperebbero molto il governo. Naturalmente un governo non particolarmente forte, che deve affrontare questioni molto poco popolari, perché lo sappiamo, la Grecia è forse in questo momento tra i paesi dell'Unione Europea quello che subisce di più gli effetti della crisi economica. Ma passiamo a un quotidiano turco, Radikal, e che titola: Erdogan, il premier Recep Tayyip Erdogan, fa un piccolo passo verso la democrazia. Ci racconta il quotidiano che il 30 settembre il primo ministro ha presentato un programma di riforme per concedere più diritti alle minoranze. Questo pacchetto democrazia prevede, tra le altre cose, la cancellazione parziale del divieto di portare il velo nei luoghi pubblici, l'innalzamento al 10% della soglia di sbarramento elettorale, la soppressione del giuramento scolastico e l'autorizzazione all'uso della lingua curda nelle scuole private. Sapete che questo dei curdi è un problema tutto sommato irrisolto all'interno della Turchia, perché i curdi sono ancora discriminati e di volta in volta possono esserci dei rigurgiti di orgoglio di questo popolo così discriminato. Si dice spesso che i curdi sono l'unico popolo sul pianeta senza una nazione, e per esempio appunto ora, almeno sul fronte linguistico, che è importantissimo, potrebbero esserci dei miglioramenti. Era però l'ultima segnalazione, vi auguro un buonissimo sabato e ancora un caro saluto da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati, 8:19 minuti, e vi diamo anche i nostri contatti se volete interagire con noi su Facebook, si può fare /radio24, su Twitter l'account è @sipuofare24, il mio è @AleMaurizzi. Allora, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati prima, cioè dalle prime pagine dei giornali, dove oggi i titoli sono tutti dedicati a Lampedusa, alla giunta per le immunità del Senato, quello che è accaduto ieri. Andiamo, e anche al Papa naturalmente. Infatti andiamo subito sull'Avvenire. Nel mondo spogli e liberi. Nella storica visita di Francesco, l'incontro con disabili, poveri, claustrali, ragazzi, lezione di pace dal poverello, appello a superare la cultura del provvisorio, e poi la famosa frase che ha colpito tutti: no ai cristiani da pasticceria, ha detto Papa Francesco. Il Papa ad Assisi, così la Chiesa, ma tutti siamo la Chiesa, né i malati né i disabili vediamo le piaghe di Cristo. E poi il consiglio agli sposi: litigate quanto volete, ha detto il Papa, se volano i piatti lasciateli volare, ma mai finire la giornata senza fare la pace. Poi c'è anche, sempre sulla prima pagina di Avvenire, una foto dedicata a Lampedusa: morti i più poveri, nella stiva c'era chi pagava di meno, e anche quindi le differenze c'erano anche sulla nave, le differenze sociali, economiche sulla nave del naufragio davanti a Lampedusa. Sulla prima pagina della Stampa, titolo su Lampedusa, ancora 200 dispersi, Boldrini cambiare la Bossi-Fini, poi primo via libera alla decadenza di Berlusconi, il cavaliere uccise la democrazia, abbiamo già letto anche prima. C'è invece uno spazio che non molti altri giornali danno alla notizia: case fantasma, sono 1,2 milioni. L'Agenzia delle Entrate: allo Stato manca un gettito a 589 milioni di euro. Andiamo a leggere: su un totale, pensate, di 2,2 milioni di particelle controllate, più della metà, 1,2 di unità, non erano censite. Per una rendita catastale complessiva di 825 milioni di euro, da cui si aspetta ora, qualora anche le rendite presunte fossero confermate, un maggior gettito nelle casse dello Stato di 589 milioni di euro. Così sulla Stampa. Sulla prima pagina di Libero: come sono decaduti in basso, esecuzione in Senato, e c'è la foto dei membri della giunta per le immunità che ha votato il sì al parere sulla decadenza di Berlusconi. Naturalmente adesso la palla toccherà all'aula del Senato per vedere come andrà a finire. Interessante, per esempio, a questo proposito, chi è che subentrerà a Berlusconi? Subentrerà l'onorevole, ancora non tale, Ulisse Di Giacomo Molisano, che è in pole position appunto per tornare al Senato. La Repubblica lo intervista, lui dice: se subentro sto con Quagliariello. Nel PDL ce l'hanno con lei, un traditore, dicono, gli domanda Repubblica. Traditori sono quelli che non hanno rispettato gli impegni. Io andai da Berlusconi prima delle elezioni e gli dissi: presidente, stavolta non opta per il Molise, vero? Sto tranquillo. E lui: figurati, stai tranquillo. E invece neanche una telefonata per dirmi che optava per il Molise. Ma io lo conosco questo partito, dice Di Giacomo. Ma lei adesso con chi sta? Gli chiede il giornalista di Repubblica. A chi fa riferimento? Il mio rapporto è con Quagliariello. Lo stimo, è un onore essere suo amico. Vola con le super colombe, dunque, dentro o fuori dal PDL? Vedremo se si farà il gruppo. Comunque starò con loro. Questo è Di Giacomo, quello che subentrerà a Berlusconi quando Berlusconi decadrà. Andiamo anche sulla prima pagina dell'Unità rapidamente. Cambiare la legge è vergogna, a proposito della Bossi-Fini. Poi c'è il titolo sul Papa: la mondanità è un cancro. Francesco: l'indifferenza uccide, non servono i cristiani da pasticceria. Anche qua leggiamo: il Papa nella città di San Francesco ricorda i morti di Lampedusa, oggi è il giorno del pianto, e mettendo da parte il discorso ufficiale accusa l'idolatria del denaro e l'indifferenza che uccide. A questo mondo selvaggio non importa se muoiono i poveri. Riprendiamo alcune cose dai giornali che abbiamo visto anche prima, dalle prime pagine. Per esempio, sempre a proposito di Lampedusa e sempre da Repubblica, il testimone: potevamo salvarne molti di più, ma la capitaneria ci ha fermati. Parla un soccorritore, dicevano di dover aspettare il protocollo da Roma. Leggiamo l'articolo dall'inviata Alessandra Zinti: non è riuscito a dormirci su, negli occhi ha ancora le immagini terribili di quelle mani che gli si sollevavano dall'acqua in una disperata richiesta di aiuto e che poi non c'erano più. Mi chiamo Marcello Nizza, sono un turista, ne ho salvati 47, ma avrei potuto salvarne degli altri se solo i soccorsi fossero arrivati tempestivamente e soprattutto se ci avessero aiutato invece di aspettare da Roma il protocollo. Questo è quello che dice un testimone intervistato da Repubblica. Sempre a proposito di questa vicenda, su quasi tutti i giornali, anche Paola Severino, per esempio, sul Messaggero di oggi: ora l'Europa dimostri di essere vera unione, dice l'ex ministro della giustizia. Insomma, tutti chiamano in ballo l'Europa. C'è però un articolo dell'europarlamentare verde Monica Frassoni sul Manifesto che, come dicevamo prima, per tutto dice, ricorda le cifre che l'Italia ha ricevuto in questi anni, svariati milioni, 112 milioni di euro per il fondo del controllo alle frontiere, ma anche 25 milioni per i rimpatri, 22 per i rifugiati, 77 per l'integrazione. Poi dice sempre la Frassoni: ricordiamoci anche che le cifre. L'Italia ha ricevuto 6.700 domande di asilo contro le circa 29.000 della Francia e 51.000 della Germania. Cioè a dire che il problema è più ampio di quello che riguarda l'Italia, nonostante l'Italia sia, questo sì, oggettivamente la frontiera prima che si incontra venendo dall'Africa e soprattutto dalla Libia per quanto riguarda Lampedusa in Europa. Quindi le cifre: 6.700 domande d'asilo in Italia, 29.000 la Francia, 51.000 la Germania. Solo ieri sono arrivati in Ungheria 11.000 siriani, la Turchia deve sostenere 150.000 rifugiati siriani. In Grecia dall'inizio dell'anno sono 70.000 le persone che sono arrivate alle frontiere. Ora io non so se questo ci può consolare, però i numeri sono questi. I numeri sono poi quelli che ricorda sul Corriere con uno studio del CNEL di qualche tempo fa, che dice ci aspettano 2 milioni di persone alle frontiere nei prossimi anni. Sul Giornale abbiamo citato prima un'inchiesta che riguarda Bersani, un conto segreto di Bersani, ma l'inchiesta è già ferma. Finanziamenti per 500.000 euro. Andiamo a leggere. Quel conto segreto di Bersani, dimenticato dai PM di Bologna, aperto 13 anni fa con la sua segretaria a Montecitorio, è usato per muovere quasi mezzo milione per il PD. In Emilia il fascicolo è finito nel cassetto, ora indaga Roma. La vicenda è stata rivelata ieri al Fatto Quotidiano, lo stralcio di un'inchiesta bolognese affidata al PM Giuseppe Di Giorgio, nata da un esposto dell'ex deputato di Futuro e Libertà Raisi, che vede la segretaria di Bersani indagata per truffa aggravata. Questa è una vicenda che già conoscevamo ai danni della regione, perché lei tra il 2008 e il 2010 avrebbe percepito lo stipendio alla regione, circa 140.000 euro, come persona di raccordo tra le istituzioni centrali e il Parlamento, mentre di fatto lavorava esclusivamente per il segretario del PD Bersani. Per ora non ci sono indagati, c'è un fascicolo di inchiesta. Una notizia che riporta il Corriere e che riguarda il braccio di ferro tra Laura Boldrini e 5 Stelle. 5 Stelle sul tetto della Camera, la Boldrini chiede 3.795 euro di rimborsi. Vi ricordate la vicenda? Scrive Sergio Rizzo. È quella che si definisce una punizione rapida ed esemplare. Neppure due settimane dopo la protesta sul tetto di Montecitorio, il capogruppo grillino alla Camera Nuti si è visto recapitare una lettera firmata dal Collegio dei Questori al gran completo con una richiesta senza precedenti nella memoria repubblicana. Soldi, 3.795 euro, tanto ammonterebbero, c'è scritto, gli oneri finanziari aggiuntivi sostenuti dalla Camera in conseguenza all'occupazione del terrazzo di Palazzo Montecitorio da parte di deputati appartenente al gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle. Quindi la bravata è costata quasi 4.000 euro ed è quello che adesso la Boldrini chiede come rimborso al capogruppo alla Camera Nuti. Noi ci fermiamo qua con i giornali, adesso facciamo una breve pausa, fra poco si potrà intervenire anche in diretta 800 24 0024, quindi insomma date un po' di tempo al centralino per organizzarsi, poi cominciate a chiamare. Andiamo a Lampedusa, tra poco la nostra inviata Raffaella Calandra. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Vi ricordo 800 24 00 24 più avanti per poter intervenire in diretta. Intanto sul Sole 24 Ore di oggi, a proposito delle case fantasma, c'è un bel commento di Saverio Fossati. Sono oltre 1,2 milioni le case fantasma, scrive Fossati, un'operazione da completare. Sono passati quasi 7 anni da quando il fisco ha lanciato l'operazione. Il bilancio finale è positivo, addirittura incoraggiante. Mostra innanzitutto che pur tra le mille difficoltà che caratterizzano spesso l'azione delle pubbliche amministrazioni, governi, ministri che vanno e vengono, regole e obiettivi mai davvero stabiliti, i risultati si possono raggiungere. Però scrive ancora Fossati, attenzione perché questa operazione deve essere completata, siamo al punto di partenza per un'azione più ampia che toccherà i sindaci, finalizzata sia alla tassazione delle ormai ex case fantasma, sia al recupero delle tasse non pagate in passato, sia ancora alla valutazione delle regolarità di questi immobili sotto il profilo edilizio, perché quello che si ricorda è che alla fine si spera di trarre un gettito di quasi 600 milioni di euro da queste benedette case fantasma. 800 24 00 24 dicevamo. Adesso andiamo a Lampedusa dove c'è la nostra inviata Raffaella Calandra, l'abbiamo sentita. Ciao Raffaella, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Anche nel giornale radio gli aggiornamenti, insomma ieri c'è stata anche la manifestazione, Lampedusa è sicuramente insomma molto molto sotto pressione, al collasso. Abbiamo sentito anche delle interviste nei talk show ieri, pescatori, testimoni, insomma è questa forse l'appendice della cronaca che ci rimane dalle ultime ore, però non dimentichiamoci di quello che è successo. Raffaella, qual è la sensazione che hai a questo punto? Allora, partiamo dagli ultimi fatti di queste ore, proprio in questo momento, dal tentativo dei subacquei di immergersi. Ci hanno provato a tornare in mare per andare lì a 40 metri di profondità dove c'è il barcone e cercare di recuperare i 200 dispersi, ma mi ha detto un sommozzatore poco fa, siamo stati letteralmente vomitati dal mare. C'è un vento forte che increspa anche questa mattina le onde, per cui ha reso al momento ferme di nuovo per il secondo giorno le ricerche subacquee, mentre proseguono quelle diciamo di superficie con elicotteri e con le motovedette della Guardia Costiera nel tentativo di avvistare, diciamo così, dei corpi, purtroppo, perché di quello che ormai si parla, perché le speranze di trovare qualcuno in vita sono davvero ridotte. Questo sul fronte delle ricerche. Per quanto riguarda l'isola si divide da una parte da questo dolore molto forte per questa sciagura del mare che le cui proporzioni non aveva mai visto in precedenza, e ieri è stata davvero una manifestazione molto sentita sentita, molto commossa, queste fiaccole, queste candele che hanno sfidato il vento attraversando il paese con questa striscia, con questo striscione. Ancora una volta non hai sentito il mio grido e le parole sincere di dolore del parroco e di tutta la popolazione di Lampedusa per questi morti e per tutti gli altri che anche in passato ci sono stati e che vengono ospitati in questo cimitero in parte di Lampedusa, spesso con indicazioni solo con i numeri per indicare la loro identità mai attribuita, ecco. Così come sta succedendo per questi ultimi morti che sono nell'Angar. A proposito dell'identità, l'abbiamo già detto, però ricordiamolo perché questo è un punto importante. Chi sono i sopravvissuti e quindi diciamo da lì si può dedurre anche chi erano un po' tutti gli altri, Raffaella, cioè Sono eritrei e somali, le vittime sono praticamente quasi tutte eritree, erano partite appunto da Misurata, dalla Libia, quindi un viaggio lungo, quindi il percorso per arrivare fino in Libia, la partenza dalla Libia che in questo momento, come mi hanno confermato ieri anche altri ospiti del centro di prima accoglienza di Lampedusa, è sicuramente la porta aperta, più aperta anche per la confusione, per la grande incertezza che c'è nel paese libico in questo momento verso l'Italia e certo. Di cui Lampedusa è l'avamposto più meridionale. Grazie Raffaella, se vuoi resta con noi perché abbiamo un altro ospite, se vuoi. Questo è un punto importante perché vengono pure dalla Libia, un paese senza controllo, ma partono dall'Eritrea e dalla Somalia, paesi da dove si scappa perché si vive in situazioni di guerra civile e non è quindi immigrazione economica come siamo abituati a parlare e a confrontarci. Io saluto Simona Moscarelli, buongiorno, esperto legale dell'OIM, che è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è un'organizzazione un po' più di una ONG, perché siete anche membro osservatore permanente all'ONU, quindi insomma avete un ruolo. Un'organizzazione internazionale. Esatto. Sì. A questo proposito, che tipo di fenomeno, che tipo di numeri abbiamo di fronte? Perché insomma, in Italia si passa però non si resta, per esempio, perché sono molte di più le richieste d'asilo che vengono poi fatte in altri paesi europei. Eppure l'Italia resta, è questa la domanda, la frontiera principale? Sì, perché per la sua posizione geografica ovviamente. In realtà queste persone, come diceva lei, provengono per lo più, i migranti che sbarcano sulle coste siciliane provengono per lo più da Somalia, Eritrea e Siria in questo momento. Le maggiori nazionalità sono queste, quindi parliamo di persone che scappano dai loro paesi per conflitti oppure per il servizio militare obbligatorio, che è questo servizio militare a cui sono costretti tutti gli eritrei praticamente a vita e che riguarda sia uomini e donne. Per questo c'è un'intera generazione di ragazzi eritrei che fugge dall'Eritrea, appunto. Attraversano il deserto del Sudan, cioè il deserto del Sahara, attraversano il Sudan, la Libia, che in questo momento resta un paese in grande confusione. Restano lì per qualche mese nascosti in alcune case sia a Tripoli che da altre parti, come ci hanno riferito i superstiti, che anche in questo caso erano tutti insieme in una casa a Tripoli. Da lì poi sono partiti per l'Italia, però l'Italia che significa il primo passo verso l'Europa, perché come diceva lei queste persone non vogliono restare in Italia, tant'è che fanno anche difficoltà per essere identificati al momento, cioè per prendere le impronte digitali. Non è difficile capire le ragioni, l'Italia è l'economia che va peggio forse in questa fase tra i grandi paesi europei, quindi la Germania e la Francia sono molto più interessanti, credo, per il lavoro, forse non anche è solo questo, hanno parenti, hanno relazioni, reti già consolidate con altri connazionali che si trovano in questi paesi. E come quando gli italiani partivano e seguivano i parenti che ci danno informazioni, ci danno ospitalità, ci accolgono e ci aprono le porte di casa. Questo è anche è naturale, ci sono paesi che hanno una tradizione nell'immigrazione molto più ampia della nostra, come la Francia e la Germania, appunto. Però una cosa le voglio chiedere, Simona Moscarelli dell'OIM. OIM, l'Organizzazione, ricordo, Internazionale per le Migrazioni. Si fa molto riferimento all'Europa in queste ore, si dice che l'Italia non può essere lasciata sola, questo è evidente perché ce lo confermava anche lei, siamo alla frontiera, anche se poi c'è un passaggio che va, porta queste persone in altri paesi europei, però la frontiera resta questa. Lampedusa è un'isola piccolissima, è vicinissima alla Libia e questo è un grosso problema, ma sappiamo che insomma, l'Europa qualcosa ha fatto. Io leggevo prima l'intervento di un europarlamentare sul Manifesto che ricordava le cifre che l'Europa ha stanziato all'Italia per intervenire. Allora il suo punto di vista qual è? C'è bisogno di più Europa o no? C'è bisogno che la comunità internazionale, per questo intendo non solo l'Europa, inizi a occuparsi di quello che succede, nel Corno d'Africa, dove in Somalia dal 1990 c'è una guerra civile che ha causato centinaia di migliaia di profughi. In Eritrea c'è questa situazione relativa al servizio militare obbligatorio a cui accennavo prima. In Siria c'è una situazione, i migranti non sono i rifugiati, non sono altro che l'effetto di queste situazioni di instabilità politica che vivono alcuni paesi. Quindi c'è bisogno da una parte che si smetta di essere ipocriti, si inizi a interessarsi davvero a quello che succede in questi paesi qui e anche a quello che succede nei paesi di transito come la Libia, in cui per esempio si possono promuovere dei programmi di reinsediamento, cioè questo vuol dire che si va a fare la verifica se ci sono dei rifugiati direttamente in Libia prima che queste persone decidano di mettersi in mare per fare questi viaggi così rischiosi. I programmi di reinsediamento già esistono in vari paesi del mondo, in Iraq, verso gli Stati Uniti, verso l'Australia, il Canada, verso paesi europei che offrono delle quote per i rifugiati, per quelli che vengono riconosciuti a rischio. Va bene, naturalmente poi chissà quanto ne parleremo ancora di questo benedetto intervento dell'Europa e insomma del ruolo di tutti in questa vicenda. Grazie Simona Moscarelli per essere stata con noi, esperto legale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Abbiamo anche un ascoltatore all'800 24 00 24, Vittorio, che ci chiama da Isernia. Buongiorno Vittorio. Buongiorno signor Mauri. Eccoci qua. Senti, io volevo approfondire il fatto del protocollo. Sì. Il fatto che è venuto a sapere che l'Italia ha ricevuto molti soldi per il soccorso a questa gente e adesso aspettano il protocollo. Questo è stato un omicidio, secondo me, se è così. Questa è una vergogna per l'Italia. Noi abbiamo citato citato non basta, questo ci deve dico per chi non ha sentito magari prima, un testimone è intervistato la Repubblica, un soccorritore che dice ne ho salvati 47, avrei potuto salvarne di più, dice lui, poi bisogna vedere anche se è vero quello che dice. Magari gioca anche un po' l'emozione, non lo so, se non ci avessero detto di interrompere un po' le operazioni di soccorso perché aspettavano il protocollo da Roma. Questo è quello che è stato detto da questo testimone, citato con nome e cognome, ed è contro questo lei, Vittorio, che se la prende, credo, no, nel suo intervento. No, questa è una vergogna terribile, signor Maurizio, è una vergogna terribile. Si può fare cronache da un paese migliore. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dove fuggi? In Italia, pistole e macchine. In Italia, Machiavelli e Foscolo. In Italia, i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare. In Italia, meglio non farsi operare. In Italia e non andare all'ospedale. In Italia, la bella vita. In Italia, le grandi serate in gala. Fabri Fibra per introdurre il prossimo argomento. Una notizia che riguarda lo Ius Soli. Se ne discute molto, l'ha introdotto come argomento di discussione il ministro Chieng. La possibilità di dare la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia, magari non subito, dopo qualche anno, dice qualcuno, lei parla di Ius Soli temperato. Molti sono favorevoli, molti altri sono contrari, dicono si trasformerà l'Italia in una piattaforma, diciamo, dove si viene a partorire figli quindi per avere la cittadinanza. Chissà chi ha ragione, chissà come andrà a finire. Intanto c'è chi la prende così con filosofia, decidendo in qualche modo di sposarla questa filosofia in uno sport, nell'hockey su Prato, perché la notizia è questa. Ius Solei, l'hockey su Prato supera la politica, gli stranieri nati in Italia sono italiani e potranno giocare nelle squadre italiane come se fossero italiani. Abbiamo convocato Luca Di Mauro, che è il presidente della Federazione Italiana Hockey su Prato. Buongiorno. Buongiorno. E allora, che cos'è che avete deciso di fare? Dal punto di vista sportivo, naturalmente, stiamo parlando, non è che questa è una legge, è un regolamento della vostra federazione che prevede che cosa? Assolutamente, noi abbiamo fatto una cosa per me normalissima. Il nostro regolamento prevede che nelle nostre squadre italiane chi è nato in Italia, sì, è cittadino italiano a tutti gli effetti, quindi può partecipare a tutti i campionati, mentre fino a ieri, diciamo, il numero massimo di stranieri era di 3. Cioè praticamente gli stranieri, che sono stranieri per la legge, ma che sono nati in Italia, voi li inserite nel conteggio non degli stranieri ma degli italiani? Perfettamente, sì, perfettamente. Quindi io potrò avere una squadra. Quanti sono, mi scusi l'ignoranza sportiva? In 11, in 11 campo, in 11 più le riserve, più in 11. Quindi in campo in 11 io posso vedere, non lo so, tre stranieri veri, ma anche altri 8 stranieri, ma perché sono stranieri di nome, ma sono nati in Italia, quindi per voi sono italiani. In Italia, sì. Che fra l'altro parlano benissimo in italiano, ormai diciamo non conosco neanche le origini del loro paese, quindi molte volte vediamo questi ragazzi che guardavano le nostre partite, ma poiché il numero nostro di stranieri era già superato non potevano entrare in campo, quindi insomma non andava bene questo. Perché non è che voi ci avete anche un problema, tra virgolette un problema, può essere anche un'opportunità, sì, cioè che questo sport è praticato molto anche dove, all'estero per esempio? Guardi, il nostro sport è stato codificato dagli inglesi, poi gli inglesi con la loro diciamo presenza nel mondo lo hanno diciamo portato in Pakistan, in India, nei paesi diciamo asiatici, ma adesso è anche diffuso in Australia, in Nuova Zelanda, chiaramente anche in America. Quindi chiaramente questi ragazzi provengono diciamo da genitori di queste nazioni, loro sono nati in Italia, quindi per noi è giusto che facciano parte delle nostre nazionali. Quindi il nostro sport diciamo ha queste origini orientali, europee orientali diciamo, e quindi questi ragazzi sono anche portati diciamo a fare l'attività hockeyistica. Ma cosa succede quando questi ragazzi superano poi i 18 anni, possono chiedere la cittadinanza, no? Normalmente. Quello senz'altro. Certo, con le normative italiane, in ogni caso, anche a 18 anni chiedono la cittadinanza, sì, e passa sempre del tempo. Cioè, però passa del tempo e comunque finché non hanno 18 anni non rientrano in questi conteggi, no, e quindi sarebbero utilizzati. E come sono questa seconda generazione di giovani italiani che giocano a hockey su Prato? Lei diceva sono stranieri di varie nazionalità, sì, però parlano italiano e di fatto considerarli italiani per voi è normale? Assolutamente. Fra l'altro devo dire che forse hanno in questo momento c'è una carica maggiore dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi ovviamente ormai sono abituati ad avere tutto, quindi sono meno portati ai sacrifici. Cioè, non è un discorso chiaramente valido per tutti quanti, però notiamo che questi ragazzi diciamo che i genitori vengono da paesi stranieri hanno più volontà, più voglia forse di inserirsi, e quindi lo sport, che secondo noi può essere diciamo una vetrina in questo senso, li porta a essere diciamo più forti e più presenti agli allenamenti per esempio. Questo è anche un aspetto interessante, anche nel calcio è così, si vanno a cercare spesso stranieri perché dicono poi i talent scout hanno più grinta, no? Anche dei giovani italiani, questo è un peccato soprattutto per i giovani italiani, però magari da questa contaminazione tra italiani e italiani di origine straniera potrebbe nascere anche una contaminazione positiva sul fatto di essere nello spirito sportivo. Senta, però una cosa voglio chiedere ancora, Di Mauro, dal punto di vista poi della nazionale, invece cambia qualcosa o no? No, per adesso no, cioè, chiaramente il nostro obiettivo è che... Lì no, perché entrano in ballo le federazioni internazionali, com'è? No, non posso già, perché devono avere il passaporto italiano per essere in campo, quindi no, questi finché non sono italiani non hanno il passaporto, quindi non li possiamo utilizzare. Il nostro obiettivo anche è che altre federazioni come la nostra spingono un po' diciamo chi deve poi decidere, chi deve legiferare, affinché insomma si favorisca il fatto che il passaporto italiano si possa avere effettivamente a chi nasce proprio in Italia. Va bene, insomma, intanto complimenti Luca Di Mauro, presidente della Federazione Italiana di Hockey, con i complimenti anche del ministro dello Sport Del Rio per questa iniziativa. I gli stranieri nati in Italia possono giocare in quota italiana nelle squadre di hockey. Grazie, buon lavoro e grazie a voi, buongiorno e in bocca al lupo per tutto. Ascoltatori all'800 24 0024, prima di chiudere, prima del giornale radio, Alfonso da Salerno, buongiorno. Salve, buongiorno. Niente, volevo dire solo una cosa. Io faccio il pescatore, come in pratica noi lavoriamo nel canale di Sicilia tutte le estati. Il problema è che fanno notizia solo quelli che si sanno, purtroppo. La disgrazia purtroppo è arrivata fino alle coste italiane, a Lampedusa, succedono tutti gli anni e sono... quando sono pochi morti fanno poca notizia e subito vengono dimenticati. Purtroppo la tragedia è molto più grave di quella che si sa. Perché dice questo lei? È perché le vittime sono sottostimate, perché molti partono dalle coste della Libia, dell'Africa, del Nord Africa, prima di arrivare alle coste di Lampedusa o della Sicilia, di queste tragedie in mani ne succedono. Cioè lei dice magari barche più piccole che non vengono neanche avvistate o che si inavvistano senza sapere nulla. Noi facciamo una pesca che navighiamo molto più a largo della costa siciliana, là proprio in mezzo al canale di Sicilia, e spesso ne troviamo sull'acqua. Ormai molti pescatori non ne fanno neanche più segnalazione, perché per molti costa giornate di lavoro, perché dove comunicare, aspettare che arrivano le motovedette, e quindi ormai anche i pescatori stanno diventando sotto un certo punto abituati a questa situazione. Certo, se si vede un barcone con i profughi a bordo si chiama in capitaneria e fin quando non c'è difficoltà non si fa nulla. Però l'umanità è grande. Lei continuerà ad andare a pescare, naturalmente sì, perché è il suo lavoro, e continuerà probabilmente a imbattersi in queste cose qua. Esatto. Certo, se uno vede una difficoltà in mare, la vita in mare, la prima regola è quella di... Ma secondo lei è verosimile quello che abbiamo citato, questa persona che dice che voleva intervenire ma l'hanno fermato perché c'era da rispettare il protocollo? Senta, se uno vuole intervenire, interviene. Cioè, va bene. Grazie Alfonso, dobbiamo fermarci qua. Si può fare. Cronache da un paese migliore. C'è una piaga che sta dilagando le nostre città. Una piaga che impoverisce le persone. È la piaga delle slot machine. Ci sono persone che si giocano tutto quello che hanno. E se mi giocassi la Basilica di San Nicola? Se mi giocassi il Duomo? E se mi giocassi il Battistero? Se mi giocassi il Palazzo dei Normanni? Se mi giocassi Castel dell'Ovo? Se mi giocassi la Mole Antonelliana? E se mi giocassi l'Arena? Ti giocheresti la cosa più preziosa che hai? Ogni giorno, sotto casa tua, c'è una nuova sala slot. Non fa bene a nessuno. Non fa bene proprio a nessuno. È soltanto un segno di inciviltà. Basta con le slot. Basta con le slot. Basta con le slot. Riprendiamoci le nostre città. Avete riconosciuto le voci di Pisapia, di Tosi, del sindaco di Bari Emiliano, di quello di Parma Pizzarotti, di quello di Torino Fassino, è questo lo spot che insomma gira già da un po', dei sindaci contro le slot machine. Riprendiamoci le nostre città, basta guardarsi intorno e vedere quante sale giochi ci sono che prima non c'erano, nascono come funghi in tutti i bar ormai, quasi, questa parola importante, in un angolo c'è una slot machine, si tratta di gioco, ma se guardate la gente che gioca non c'è molto di divertente. Un'iniziativa avviene oggi a Monza, si tratta di uno slot mob. E allora noi abbiamo convocato Angela Grassi, che è dell'organizzazione civica Una Monza per Tutti, che ci spiega di cosa si tratta. Buongiorno Angela. Buongiorno, grazie di avermi chiamata e di avermi messo in trasmissione. Aderiamo chiaramente alla vostra iniziativa, anche noi, e siamo contro il slot mob. O meglio, vogliamo mobilitarci per il buon gioco, contro le nuove povertà e la dipendenza dal gioco d'azzardo. Ecco, perché lo slot mob non è un boicottaggio di chi c'ha le slot machine, ma forse è l'opposto. Cioè voi andate in un bar che ha deciso di fare a meno delle slot per fare che cosa, Angela? Sì, per premiarlo, per fare una colazione, un aperitivo, come succederà oggi a Monza dalle 11:30 al caffè della piazza. Il gestore ha deciso di non avere più le slot e ci racconterà anche lui la sua storia. Sì. E quindi noi faremo insieme dei giochi, tipo un torneo di calcio balilla, dei giochi da tavolo con la collaborazione della Città del Sole, e ci sarà un mago con dei giochi di prestigio per attirare tante persone, e quindi noi lo premieremo come la sua virtù civica, diciamo, di aver rinunciato ad avere questo guadagno facile. Sì. Ma che viene dall'azzardo legalizzato, quindi perché insomma ecco, famiglie, molti gestori raccontano infatti di essersi tolti un peso, molti baristi, sì, quasi sì, un peso, perché pur essendo questa una fonte di guadagno, le stime sono diciamo approssimative, non so Angela voi se avete qualche stima, però si parla di 1.000-2.000 anche 3.000 euro al mese per un bar, e non è poco. Assolutamente, sì, sì, sì. Allora, però, chi si toglie questo peso dallo stomaco, poi sta meglio, il bar torna a essere un bar normale, nel senso dove non ci sono appunto questi angoli semibui, dove c'è gente, pensionati che spendono, bruciano la pensione, ci hanno raccontato di gente che si è giocata al primo stipendio, ex precari, eccetera, e sono storie vere, non è che sono storie inventate. Certo, anche noi le conosciamo, ci saranno delle persone che hanno avuto anche dei lutti familiari per questo, a causa del gioco, persone che si sono tolte la vita perché non ce la facevano più a resistere, però noi vogliamo essere positivi e quindi curare il cattivo gioco con sì, il buon gioco, perché il buon gioco è sempre un bene relazionale, perché lo slogan di Slot Mob, sì, che è nazionale, un'idea nazionale, è un bar senza slot ha più spazio per le persone, quindi per la relazione tra le persone, e cosa di meglio che un gioco, un bel gioco, un torneo di calcio balilla, un gioco da tavolo, la dama, uno scarabeo. Ecco, questo è quello che vogliamo fare. Non siamo chiaramente i primi a farlo a Monza, l'associazione La Monza per Tutti ha aderito a questo progetto di Slot Mob che è iniziato già a Biella, a Milano la settimana scorsa con ampio successo, come voi sapete, e quindi proseguiamo, poi ci saranno altri eventi in calendario a Cagliari, a Palermo nei prossimi mesi, fino ad arrivare poi a Roma e in altre città. Chiaramente questa idea deve essere portata avanti, come anche voi portate avanti, insieme, per fare rete, proprio per evitare questo dilagare di questo perché gioco, insomma, che... diciamo anche che non è che si tratta di fare una crociata contro il gioco, no, o contro i videopoker eccetera, però sicuramente abbiamo avuto, ci sono i numeri che parlano, insomma c'è stata un'invasione in questi anni, e forse, come qualcuno suggerisce, sarebbe meglio mettere dei paletti, magari confinare anche questo tipo di giochi dentro i casinò o dentro alcune sale giochi, alcune magari, ma non tante così come sono adesso diffuse, certo, da tutte le parti, e soprattutto in tutti i bar vicino alle scuole, vicino insomma ai luoghi sensibili. Ci aveva provato il governo Monti con una legge che però poi non è andata a buon fine. In Lombardia, Angela, mi pare che si aspetti una legge? Siamo in attesa di questa legge, dicono che il 15 ottobre è all'ordine del giorno al Consiglio regionale l'approvazione di questa legge, che pare metta questi paletti, quindi 500 metri dai luoghi di ritrovo, cioè scuole, ospedali, chiese, eccetera, e altre, come dire, e altre limitazioni che favoriscono il non giocare e a non installare queste macchinette, insomma mangia soldi. Se uno volesse aderire un po' alle vostre iniziative, a questi Slot Mob che ci dicevi, Angela, avverranno anche in altre città, Cagliari, Palermo, non solo Milano, Monza, sì, eccetera, come bisogna fare? C'è un sito, c'è una pagina Facebook, qualcosa, un contatto, no, che ci vuoi ricordare? Allora, il contatto è Slot Mob su Facebook in generale, e poi ci sono i vari eventi, ad esempio oggi si può andare sulla pagina di Slot Mob Monza, oppure il sito dove è nato l'idea di Slot Mob è www.nexteconomia.org. Slot Mob. Va bene. Sì, ecco. Grazie, grazie mille. Allora, aspettiamo tutti a Monza alle 11:30 al Caffè della Piazza. Grazie a te, Angela, e a presto. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ben ritrovati. Andiamo subito col numero verde 800 24 00 24. Vi chiediamo di intervenire, se volete, sulle notizie di giornata, della settimana, quelle che abbiamo letto dai giornali, ma anche sugli spunti, le cronache da un paese migliore. Insomma, noi ci proviamo a raccontare le cose che funzionano, a vedere un po' l'attualità filtrata con un po' d'ottimismo. Sara da Milano, buongiorno. Buongiorno. Per cosa aveva chiamato, Sara? Allora, io chiamavo a proposito degli eritrei. Sì. E non, ho sentito parecchio parlare di tante cose, della tragedia, però non ho sentito il motivo perché li spinge a, ad arrivare a questo punto queste ragazze, questi ragazzi. C'è il motivo, mi mancano le parole. Guardi, Sara, lei, ma lei di dov'è? Io sono eritrea. E che rapporti ha col suo paese d'origine? Perché questi immigrati che sono naufragati venivano quasi tutti dall'Eritrea e dalla Somalia, paesi dove in misura diversa, ma la cronaca ci racconta di guerre civili, del servizio militare obbligatorio permanente in un paese in guerra, allora, permanente, e quindi di giovani che scappano perché non hanno un futuro se non con un mitragliatore in mano. Non hanno un futuro, sono lì alla confine. Io parlo in particolare degli eritrei, sono lì al confine, alla confine, ad aspettare che se qualcuno sparasse, senza futuro, senza né quando finisce, come finisce. Sara, ma lei ha dei parenti ancora? 18 anni, devono aspettare là. Sì. E nessuno gli dice che finirà la militare per loro a questo punto, senza essere pagati, sfruttati fino all'ultimo, e muoiono. Cioè, lei anche ancora, danno... Sara, ha ancora dei parenti in Eritrea? Penso di sì. Sì, che ce l'ho. Ma da quanti anni lei è in Italia invece? Ho avuto anche i parenti, che sono, i fratelli che sono venuti con l'imbarcazione anche per me, non questa, un altro. È andato tutto bene a loro? I suoi fratelli che sono venuti? Sono qua, sono in Inghilterra, nessuno eritreo si ferma qua, non si fermano in Italia. E dov'è che vanno gli eritrei, Sara? Dov'è che vanno gli eritrei principalmente? Allora, vanno o in Inghilterra, in Olanda, nei paesi che dove danno il politico asilo. Quando ti danno il politico asilo, ti danno la casa, ti danno, finché non hai il lavoro, ti sostengono in tutto per tutto. Va bene, in Italia grazie. Non c'è questo. Grazie, io però, Sara, non intervengo per questo, intervengo per parlare del paese, della provenienza dei governi. Sono loro, bisogna... medicare di là, non qua. Qua stanno facendo quello che possono, anzi, è da ringraziare, non abbiamo avuto dal nostro governo e stiamo trovando dagli altri. Va bene, Sara, grazie mille, grazie. Dobbiamo lasciare spazio anche agli altri, naturalmente. Lei dice che bisogna intervenire laggiù, è chiaro, per risolvere i problemi. Bisogna vedere se ci si riesce o se ci si prova anche solamente. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari e non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa. Se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a vanvera, e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita. Vivere di rendita capita ogni domenica. Se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Le monetine sono quelle che tintinnando entrano e non escono mai dalle slot machine, perché principalmente si perde, sappiatelo, giocando alle slot machine, ma sono anche le monete diverse messe in campo da una iniziativa che fondamentalmente si basa sul principio del baratto, ma non il baratto quello io ti do una cosa a te, tu dai una cosa a me, il libro usato eccetera eccetera, o il gilet nei negozietti di abbigliamento, no, il baratto di servizi veri e propri tra aziende, cioè una cosa che può far girare l'economia, ma non è neanche semplicemente baratto. Adesso ce lo spiega Cristiano Bilucaglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Presidente di Visiotrade, vogliamo raccontarvi questa storia perché insomma è quanto mai di attualità. Voi da quanto tempo siete partiti con questa iniziativa che adesso poi ci dirà in che cosa consiste? Noi siamo nati alla fine del 2009 e siamo, diciamo, operativi da inizio 2010 sul territorio italiano. E che cosa fate esattamente? Noi abbiamo in gestione un circuito di imprese, oggi sono 2500, le quali all'interno dello stesso acquistano ciò che gli serve pagando con ciò che producono. quindi un banale baratto che però di fatto in un regime di multilateralità e multitemporalità consente alle imprese di vendere il proprio prodotto e comprare tutto ciò che gli serve, come se avessero a disposizione una valuta che non è trasformabile in euro ma che è spendibile all'interno di questo circuito. Facciamo un esempio, ci sarà una, sì, un metro di misura di questi servizi, cioè io se pago con i prodotti della mia azienda poi vanno misurati, e come li misurate? Beh, il mercato misura, nel senso che il prezzo, la conversione, la nostra moneta complementare, sì, come la chiamiamo, si chiama euro credito. In pratica io vendo il controvalore di un euro e ottengo un euro credito. Ma per fare un esempio molto banale, il ristorante che decide di vendere 1000 euro crediti di pasti, a quel punto avrà il controvalore di 1000 euro crediti, quindi di 1000 euro per acquistare quello che gli serve per far funzionare la sua azienda: vini, carne, lavanderia, pubblicità, ristrutturazione, tinteggiature. E quindi permette a questa impresa, a questa azienda, il ristorante, di non utilizzare il preziosissimo cash per affrontare, sì, le spese, per far funzionare la sua impresa, ma utilizza del maggior fatturato che noi gli portiamo grazie alle imprese che ci sono in questo circuito, e lui in questo modo riesce a, diciamo così, a vivere molto bene. Ecco, ma quali sono, però spieghiamolo perché potrebbe, sì, anche non essere del tutto intuitivo, cioè questo sistema di baratto basato su questa moneta complementare dell'eurocredito, quali sono i vantaggi che offre alle aziende? Cioè il fatto di non doversi esporre con la liquidità, esatto, ma di, sì, utilizzare i propri prodotti e servizi complessivamente dal punto di vista economico, che vantaggi dà? Perché un'azienda dovrebbe aderire a questa cosa qua? Un'azienda aderisce perché oggi utilizza il contante per pagare le proprie forniture. Noi gli portiamo maggior fatturato col quale può acquistare prodotti e servizi per far funzionare la propria impresa. In più, ogni azienda entrata nel circuito ha a disposizione una sorta di affidamento in eurocrediti che gli permette di acquistare i beni e servizi prima ancora di aver venduto il proprio prodotto, quindi ha un boost, ha un turbo iniziale che gli permette comunque di risparmiare liquidità. Quindi il ristorante dell'esempio di prima, se deve acquistare la fornitura di 1000 euro di vini normalmente pagando col cash, noi gliela facciamo acquistare nel circuito e lui successivamente pagherà vendendo pasti ad altri aderenti al circuito successivamente, quindi ha un beneficio di cassa immediato. E quindi questo meccanismo diventa un meccanismo vorticoso che consente a tutte le imprese di vivere in una sorta di... Cioè può diventare, può diventare quasi un'alternativa a quel bisogno di liquidità al quale le imprese ci hanno abituato a, diciamo così, a dover fronteggiare, che spesso poi trova nella banca più che un alleato un ostacolo, no? E quindi in questo senso intervenite voi. Cioè, però per fare questa cosa qua ci vuole un cambio di mentalità. Chi sono le imprese che per esempio aderiscono a questo network, imprese particolarmente innovative, tradizionali? Come fate a penetrare nel mondo delle aziende per far passare questo cambio di mentalità? Sì, lei ha detto benissimo, cambio di mentalità. Diciamo che oltre al cambio di mentalità ci vuole fiducia nel sistema. Adesso che sono 2500 imprese e abbiamo fatto nell'ultimo anno transazioni per oltre 50 milioni di euro in controvalore, quindi in euro crediti, adesso le imprese credono tantissimo, perché il concetto del passaparola è un concetto semplice. Se un mio amico mi parla di questa iniziativa, è ovvio che la raccolgo. All'inizio è stato più complesso perché di fatto abbiamo dovuto così, diciamo, persuadere le imprese ad entrare. Oggi, se inizialmente avevamo imprese medio-piccole che entravano nel circuito, e continuano anche oggi, dei professionisti, gli artigiani, i commercianti, che ne so, anche l'hotel, la scuola di formazione, il consulente, il medico, il dentista, oggi abbiamo anche aziende medie che iniziano ad entrare e a trovare dei benefici dall'industria, l'azienda che magari manufatturiera, che fa produzione, perché naturalmente è una replica in miniatura del mercato normale, nel quale ovviamente non possiamo fare a meno dell'euro, però in maniera complementare, parallela all'euro, introduciamo questo meccanismo che consente alle imprese di risparmiare parecchia liquidità. Ci sono imprese che oggi con noi fanno il 3% del loro fatturato e ci sono imprese più piccole che magari devono fare il 50-60% del loro fatturato all'interno del circuito perché ne trovano un beneficio. Quindi si parla sempre molto di esodo verso l'estero, di aziende che devono cercare, sì, situazioni migliori per far funzionare la propria impresa, e la soluzione noi oggi ce l'abbiamo in Italia, senza dover andare da nessuna parte. Va bene, insomma, complimenti per quello che fate. Grazie a Cristiano Vilucaglia, presidente di Visio Trade, e in bocca al lupo. Sì. Grazie a tutti, ci rivediamo tutti su visiotrade.com. Grazie. Certo, per chi fosse interessato, insomma, avete capito, vi ha dato anche il contatto per entrare in questo mondo, fare questo cambio di mentalità che può avere dei vantaggi notevoli per le aziende, soprattutto che magari possono avere problemi di liquidità. Adesso torniamo un attimo al numero verde 800 24 00 24, c'è Andrea che ci chiama da Milano. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei per cosa chiamava? Io sono un ex militare, sì? Ho partecipato a diverse missioni all'estero, di cui l'ultima in Somalia. Al di là dello scopo per cui questa missione è stata fatta, che non è il caso di citare qua. Ma quanti anni fa è stato in Somalia lei? Nel 94. Quindi è passato qualche annetto? Sì, è passato qualche annetto. Sì. Ma la situazione è cambiata in questi anni? No, è peggiorata, perché naturalmente noi non abbiamo più il controllo di praticamente nulla, anche se c'è un'aliquota dei paracadutisti un po' segreta, però c'è un'aliquota di paracadutisti del 185esimo reggimento presenti a Mogadiscio, uh-huh, per cercare di ripristinare in qualche maniera un po' di ordine in una delle realtà più anarchiche che esistano sul pianeta. Dall'Eritrea, dalla Somalia, lei è stato in Somalia come militare, ovviamente lei l'ha vista quando c'è stato, magari continua a seguire questo paese. No, all'epoca la fuga non era ancora, perché così, era l'inizio della crisi. Esattamente, era all'inizio, era praticamente caduto da poco Siad Barre, i signori della guerra, cioè Ali Mahdi, che era nostro alleato, e Mohamed Farah Aidid, che erano praticamente i due signori della guerra più importanti, che poi si sono scontrati in quello che fu il nostro checkpoint Basta, oppure ancora prima nel 93 il Black Hawk Down degli americani contro appunto Mohamed Farah Aidid, che costò 22 morti ai reparti speciali americani. Quello era il momento in cui Mogadiscio stava diventando ciò che poi è diventata, cioè una città di quasi 2 milioni di abitanti che ha attirato tutti i somali verso di sé, e che adesso li sta facendo scappare via per la disperazione, e naturalmente i legami con l'Italia molto forti di tutta la si chiamava Abissinia un tempo, di tutta la Somalia e di tutta l'Eritrea e di tutta l'Etiopia, naturalmente parlano tutti italiano queste persone. Quindi vengono, ma secondo da noi lei molto, secondo lei, diciamo, un ritorno di una presenza militare internazionale nella zona potrebbe essere utile? A costo di parecchie vittime, sì. Nel grazie, senso che, sì. Nel senso che ci costerebbe veramente tanto in termini umani, perché abbiamo avuto come sempre, in tutte le missioni, e lì in particolare. Grazie Andrea per la sua risposta secca a questa domanda. Sentirsi come papà senza santi da pregare, si può fare. Allora, torniamo alla giornata di ieri e al pomeriggio di ieri, nel quale dopo tantissime attese alla Giunta per le immunità del Senato si è svolta la giornata decisiva, si è votato il parere, come era nelle attese, favorevole alla decadenza, con annesse e connesse polemiche, e poi con la palla che adesso passa all'Aula del Senato. Salutiamo con piacere il Presidente della Giunta, Dario Stefano. Buongiorno. Con piacere. Buongiorno. Anche perché lei ha vissuto, insomma, un periodo di 2 mesi sotto il fuoco incrociato di dichiarazioni, pressioni, insomma, devo dire che ha mantenuto anche un certo equilibrio, credo che gli sia stato riconosciuto. Adesso si riposerà un po', perché... Ma ora sono già concentrato, già da stamattina... Su cosa? A scrivere la relazione. Ah, certo. E il passaggio formale con il quale accompagniamo questa nostra decisione all'Aula. E come ho già detto ieri, è un impegno che intendo assolvere nel migliore dei modi, perché vorrei trasferire, sì, ai componenti dell'Aula anche i dettagli di una discussione che è stata di merito, profonda, di dettaglio. Cioè lei questa discussione la conferma, c'è stata, perché una delle critiche che viene fatta invece è che si sia andati a passo troppo spedito, critiche no, dal questo. PDL. Guardi, il passo ci è stato dettato dal regolamento e dai tempi che abbiamo ossequiato, è chiaro che è una questione che incrocia la prima applicazione di una legge, ma investe anche il leader di un partito e di uno schieramento, e questo ha creato un evidente interesse mediatico esterno alla Giunta, che però ha tenuto la Giunta lontana dalle pressioni diverse da quelle dei contenuti. Le posso assicurare che in Giunta abbiamo sempre discusso, anche vivacemente, ma di contenuti e mai di approccio politico. Senta, questa vicenda del senatore Crimi, che ha effettivamente postato, credo sul suo profilo Facebook, ma anche su Twitter, poi ha dato e si è attribuito la colpa, la responsabilità a un suo collaboratore, ma questo non importa perché il profilo era il suo, delle offese, diciamo degli insulti anche un po' volgarotti, così banalotti, a Berlusconi, e il PDL ha chiesto di sospendere la seduta perché sarebbe stata violata la riservatezza, un po', no? È una cosa che non c'entra nulla, campata per aria, oppure che è successo intanto ieri con Crimi? Guardi, quello che è successo ieri l'ho già definito inopportuno, e certamente non proprio di chi è chiamato a ricoprire un ruolo. Ciò detto, nella stessa seduta di ieri ho valutato che non ci fossero i presupposti per interromperla, poiché questa iniziativa di Crimi non era avvenuta in coincidenza della Camera di Consiglio, nella quale noi avevamo l'obbligo, avevamo assolutamente la necessità di mantenerci terzi e strani isolati al mondo esterno. Perché è successa prima questa cosa? Ma è successa prima, per quanto ci è stato dimostrato anche dallo stesso Crimi durante la Giunta, ed è successa con le modalità che tutti conosciamo. Io credo che quello è un gesto che non andava fatto, ma che non poteva essere il presupposto per interrompere i lavori di una giunta. Senta, a proposito dell'applicazione della legge Severino, che per quanto riguarda, credo, un parlamentare è il primo caso, no? Quello di Berlusconi. Sì, assolutamente. Però sì. Per quanto riguarda invece politici di rango minore, cioè esponenti di amministrazioni locali, ci sono state delle applicazioni di cui si è parlato poco per niente, in qualche caso sono andati sui giornali perché si è fatto il paragone con Berlusconi. Quindi questa cosa della retroattività, lei come la giudica, questa critica che è stata fatta, ma si applica una legge in maniera retroattiva, tema che è stato sollevato però solo per Berlusconi, perché negli altri casi cosa è successo? È stata applicata, punto e basta. Quali sono gli esempi che si possono fare? Ma lo ha detto lei intanto, diciamo che è la prima applicazione ad un parlamentare, ed è certamente vero che il parlamentare è una fattispecie diversa, che va trattata in maniera diversa. Io voglio conservare il mio impegno a non esprimere valutazioni di merito, perché sono ancora impegnato in un'attività che mi dovrà portare a relazionare in giunta qual è stato il profilo ed il ragionamento su cui la giunta poi ha trovato una maggioranza. Il tema era proprio questo: da una parte c'era un fronte che sosteneva il rilievo costituzionale anche in termini di retroattività, dall'altro c'era un fronte invece che giudicava quella legge idonea ed giudicava quella legge come un atto legislativo che il Parlamento nella precedente legislatura aveva assunto proprio perché entrasse in immediata applicazione in questa legislatura. Sono le due tesi che si sono confrontate. In giunta ha prevalso quest'ultima, con delle motivazioni anche approfondite che sviluppano un ragionamento in punto di diritto, ed è proprio l'impegno che sto assolvendo e che assolverò in queste ore per metterle dentro ad una relazione che porterò all'attenzione dell'Aula prima del voto. Cari ascoltatori, all'800 24 00 24, cosa ne pensate di quello che sta dicendo Dario Stefano, che è stato l'arbitro un po' di questa vicenda che ha tenuto, diciamo, abbastanza col fiato sospeso, ma anche se non è conclusa, l'Italia intera, berlusconiani e non berlusconiani, nell'ultimo mese e mezzo. 800 24 00 24, diceva che lei sta preparando comunque la relazione da portare poi, che verrà, insomma, sarà la base del lavoro del Senato. quali sono i tempi, ma soprattutto sulla questione del voto, palese o segreto? Anche qua si è molto discusso. Intanto cosa prevede il regolamento? Il regolamento prevede in senso generale che qualora lo chiedano 20 senatori e lo chiedano motivando il fatto di essere in dissenso rispetto a quello che propone la giunta, il voto debba essere segreto. Come ho detto, perché però, voi avete proposto, mi scusi, faccio questa precisazione, avete invece messo come appendice nel documento che dovrà ancora uscire, che della giunta, che il voto dovrà essere palese, questo è quello che avete votato? No. Assolutamente, noi non è c'è alcun documento, noi ieri abbiamo il dispositivo, lo abbiamo già reso pubblico, la giunta si è pronunciata per la mancata convalida dell'elezione del senatore Berlusconi e quindi per la decadenza. Però quindi non c'è una vostra previsione sul voto in aula? No, la previsione è il regolamento. È il regolamento che prevede voto segreto ogni volta che si vota sulle persone. Quando 20 senatori, almeno 20 senatori fanno richiesta in tal senso perché dichiarano la volontà di esprimersi in dissenso alla proposta della giunta. Perfetto. Io però in questi giorni l'ho detto più volte, ed è tutto evidente che viviamo un periodo storico nel quale mal si concilia questo tema della segretezza con una aspettativa della nostra comunità che vorrebbe che fossimo trasparenti. Però penso anche che immaginare di modificare il regolamento del Senato per una fattispecie e basta sarebbe, diciamo, una cosa inopportuna. Si potrebbe scegliere una strada più ragionevole, tipo? Che quella che è stata seguita nel 2007 alla Camera, quando su un caso analogo di votazione tutti i gruppi parlamentari addivenirono ad un accordo volontario per il voto palese. Potrebbe essere una via di uscita ragionevole. Potrebbe, però, e credo che visto le pressioni che ci sono state, visto come il PDL ha gestito questa vicenda, sempre abbastanza all'attacco, non credo che questo sarà un auspicio da parte del PDL, però insomma questo è quello. Guardi, che io le dico una cosa, voglio esprimerle questo mio pensiero. Io non credo che l'esito dell'aula si modificherà in base alla modalità di voto, perché credo che ogni parlamentare si esprimerà secondo coscienza. Stefano, però visto quello che è successo due mesi fa, un po' di più di tempo fa, con sei mesi fa forse, con il voto sulla Presidenza della Repubblica, in casa PD soprattutto, da quelle parti non c'è una grande sicurezza dell'omogeneità di voto rispetto a quelle che sono le dichiarazioni. Su un tema diverso, sull'applicazione, sulla idea di applicazione di una legge o meno. Però questo è un mio pensiero, perché io credo che ogni parlamentare debba esprimere... Questo è quello che dovrebbe accadere. Un'ultima cosa, quali sono i tempi a questo punto, Stefano, del voto? Ma guardi, i miei tempi non saranno tempi lunghi, perché mi ci vorranno solo qualche ora, qualche giorno per scrivere la relazione. Dopodiché consegnerò questo atto al Presidente del Senato, che con la conferenza dei capigruppo calendarizzerà in aula il voto. Va bene, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata, arrivederci. Ripeto, buon riposo a Stefano, perché è stato per due mesi il crocevia di tutte queste vicende sulla giunta per le immunità. Adesso la palla passa al Senato. Abbiamo un ascoltatore all'800 24 00 24, Gandolfo, che ci chiama da Palermo, buongiorno. Pronto, signor Alessio, dottor Alessio? Eccolo qua, prego. Dottor Alessio, io devo dire una cosa. Anche io ero un ex imprenditore che lavorava, meno di che ha fallito la cassa edile, che è la rovina dell'Italia. Dove guardi, non abbiamo capito nulla per ora, mi scusi, perché c'è un problema forse sulla linea, riparta. Allora, dottor Alessio, chiamo da Palermo, io sono un ex imprenditore che meno di che ha fallito dalla cassa edile, che è quella che produce il nero pagato dallo Stato, degli impiegati. Io voglio, per tornare al discorso di onorevole Berlusconi, dico che hanno fatto tutti una carognata. per una persona come il presidente Berlusconi, che ha diciamo 50.000 dipendenti, paga 2 miliardi di tasse all'anno, oltre a quello che dice nel suo iter diciamo, di patrimonio, cioè 5 coppie, sarebbe giù della Corte Costituzionale, lo hanno e le faccio anche il nome, partiamo non dall'asso di coppia. Sì, Gandolfo, io ho capito qual è questo argomento, è stato detto mille volte, però non è che uno se ha 50.000 dipendenti o neanche ne ha 100.000 può stare sopra le leggi, questo bisogna sempre ricordarselo. Poi c'è il tema dell'agibilità politica, e c'è il punto di vista di Berlusconi che è convinto di essere perseguitato e di chi lo sostiene che e dice che questa sentenza è una sentenza politica ingiusta, però c'è anche il rispetto delle leggi e non è che se uno ha tot dipendenti non può, può non rispettare le leggi, perché questo non vale nello Stato di diritto. Potrai correre nel sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Vi ricordo i nostri contatti, sono entrato sulla sigla, si può fare Trattino Radio 24 su Facebook, chiocciola si può fare 24 su Twitter, il mio è chiocciola Ale Maurizi, scriveteci durante la settimana, poi anche durante il programma, adesso, domani dalle 8.30 fino alle 11, cerchiamo di avere un po' di interattività, raccontateci le vostre buone notizie, perché saranno il filtro col quale leggeremo l'attualità tutti i weekend, le più belle storie che ci segnalate le racconteremo naturalmente in onda. Abbiamo anche il numero verde in diretta 800 24 00 24, c'è Ernesto che ci chiama dalla provincia di Caserta. Ernesto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Maurizi, mi chiamo Ernesto. Lei per ieri cosa chiamava? Io ieri ho partecipato alla Marcia per la Vita, alla manifestazione che Maurizio Patriciello è riuscito ad organizzare. Nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Guardi, non è solo cosiddetta, è proprio così, non è solo cosiddetta. Io ho un solo timore, il timore è che c'è questo interesse mediatico abbastanza importante, anche se ovviamente la tragedia di Lampedusa e Berlusconi hanno così portato in secondo, se non terzo piano, quello che accade da queste parti. Però ho un timore, il timore è che se effettivamente qualcosa si muove, e quindi iniziano ad arrivare dei soldi per la bonifica di questi suoli. Cioè che sia peggio il rimedio, il tappo del buco, come dicono in Veneto. Perché se la bonifica viene fatta dall'esercito o da delle aziende di primaria importanza nazionale, e la fanno quelle aziende senza la caterva di subappalti che si può creare, allora forse i rifiuti vengono rimossi e il denaro viene destinato esclusivamente a quella cosa. Cioè lei invita praticamente a, visto che si sta sollevando la giusta attenzione su questa questione e lì nella zona, cosa siamo, la provincia di Caserta? Sì, guardi, è tutto la provincia fra Napoli e Caserta, l'Agro Aversano e la cosiddetta appunto Terra dei Fuochi, che a gestire l'eventuale bonifica sia direttamente l'esercito, imprese di primo piano impeccabili. Questo credo che ci si possa unire tutti a questo auspicio. Grazie Ernesto. Grazie a lei, per la sua testimonianza, e questo così deve essere, e speriamo assolutamente che si muova qualcosa, perché quella vicenda è estremamente inquietante. Adesso noi restiamo in campagna cercando di vederla più positivamente. Nella vecchia azienda agricola, icola, icola, oh, quante bestie allo zio Cesco, esco, ciao, ai pidocchi, occhi, pid, quante bestie allo zio Cesco, tutte su di sé. C'è un appuntamento da ieri a domani a Milano, l'agricoltura, avete capito bene, Milano Festival. Allora io non so quanti festival dedicati all'agricoltura ci sono, ce ne saranno sicuramente, però già il fatto che si svolga a Milano, una città che così ha istinto di agricolo a ben poco, anche se poi non è così, lo scopriremo. Mauro Del Corpo, buongiorno. Buongiorno a voi. Presidente dell'Associazione Idee per l'Agricoltura, intanto così in due battute, cos'è il Milano, l'Agricoltura Milano Festival, la prima edizione? Sì, la prima edizione potremmo dire che è un numero zero, ha un obiettivo molto semplice, quello in qualche modo di restituire a Milano e ai suoi cittadini, quando parliamo di Milano parliamo della grande Milano ovviamente, la vocazione agricola della città. Questo è, diciamo, l'obiettivo principale. Vocazione agricola, la seconda città agricola d'Italia. Ecco, e questa è la cosa curiosa, nessuno lo sa, ma c'è un'ampia zona per un vecchio regolamento, credo urbanistico, che prevede che non si possa costruire a sud di Milano per via del rischio alluvioni. Adesso io vado proprio così a braccio. Per cui abbiamo una zona agricola immensa dentro il comune di Milano. Sì, c'è il Parco Agricolo Sud Milano, che non è un parco, come dire, ambientale come normalmente sono, il Parco Sempione. Sì. È uno spazio. Più importante. È uno spazio agricolo che contiene più di un migliaio di aziende agricole. Senta, quindi, Del Corpo, però è anche un messaggio, insomma, agli italiani, a chi crede nell'agricoltura, alla riscoperta dell'agricoltura, ai numeri dell'agricoltura, del Made in Italy, delle esportazioni di prodotti agroalimentari, c'è un vero e proprio boom. Sì, diciamo che noi ci inseriamo in un contesto che è stato, come dire, già coperto da altri organismi, altre associazioni, quindi diciamo che aggiungiamo la nostra parte a un movimento che tende a valorizzare questo settore. Le cose interessanti sono legate da una parte a un'attenzione sempre più ampia dei cittadini, dei consumatori, alle tematiche agricole per quanto riguarda proprio il consumo del cibo, l'alimentazione. Dall'altra parte c'è un aspetto economico, il settore agricolo è l'unico con un segno più piccino, però un segno più dell'economia italiana, e soprattutto ha una forte, come dire, componente interna che è legata ad attività che una volta non erano agricole, che oggi sono agricole, come il turismo rurale e soprattutto quello che riguarda la difesa del paesaggio. Se non esiste in Italia un, come dire, un settore che si occupi di difesa del paesaggio come l'agricoltura. La cosa è molto curiosa perché molti turisti vengono in Italia per la qualità del paesaggio. Se non avessimo gli agricoltori, no, tutto questo naturalmente non ci sarebbe. Evviva! Senta, in 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere, 30 veramente, un appuntamento su tutti di questi 3 giorni di Agricoltura Milano Festival. Ah, guardi, io adesso in questo momento sono al mercato ortofrutticolo di Milano, che è il più grande mercato ortofrutticolo non solo d'Italia ma d'Europa. Stiamo praticamente valorizzando i contenuti etnici di questo mercato, che al suo interno ha 45 etnie. Quindi stiamo facendo vedere i prodotti di popoli diversi per popoli diversi, e stiamo tutto sommato anticipando fenomeni non solo legati all'integrazione di una grande città come Milano, ma i fenomeni che verranno, cioè gli argomenti che verranno discussi fra 2 anni qui a Milano per Expo. Va bene. Questo potrebbe essere anche un antipasto rispetto a quello che sarà Expo. Grazie Mauro Del Corpo, presidente dell'Associazione Italiana di Idee per l'Agricoltura. Questo era Milano Agricoltura Festival. Io mi fermo qua e voglio ringraziare Andrea Piana e Giorgio De Luca, che hanno scritto assieme a me il programma, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che domani ci sarà anche Carlo Gabardini, il nostro stagista, opinionista. E niente, cos'altro vi devo ricordare? È finita qua la prima puntata in questo nuovo formato, speriamo vi sia piaciuta. Ci risentiamo domani alle 8:30, però è l'orario della domenica, fino alle 11 si interviene in diretta, Facebook, Twitter, insomma, mandateci le vostre notizie, ci sentiamo domani da Alessio Maurizi, buona giornata. L'Italia si può riscattare solo mettendo al centro dell'attenzione le sue caratteristiche peculiari del territorio, cultura, tradizioni, turismo e agricoltura. Da lì bisogna partire per ridare slancio a quelle che sono poi l'ingegno e la manualità che gli italiani hanno sempre saputo dimostrare in giro per il mondo. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. See?